Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Juncker all'attacco di Renzi, la smetta di attaccare la Commissione sulla flessibilità, si è intestato la vittoria, ma se c'è questa flessibilità è solo grazie a me. In manette dopo 30 anni per l'omicidio della ex compagna di liceo a Varese è stato arrestato un uomo di 42 anni, il caso era stato riaperto nel 2013. Sulle unioni civili resta aperto lo scontro nel Partito Democratico, una trentina di cattolici contro l'adozione del figlio del partner, manifestazioni contro il 30 gennaio. Titoli dell'auto nervosi in borsa dopo la bufera di ieri su Renault e Fiat Chrysler, arrivano anche i dati sulle vendite in Europa, più 9,2% per il settore nel 2015. Stavano sperimentando un farmaco contro il dolore a base di cannabis, 5 persone gravi e una clinicamente morta in Francia. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il numero di sms, 349-238-6666, che è anche il numero di contatto per WhatsApp. In apertura dunque oggi la politica europea, perché ci sono state dichiarazioni questa mattina molto pesanti del Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker nei confronti dell'Italia e del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, soprattutto per gli attacchi che nelle ultime settimane la stessa Italia a Roma ha portato proprio al lavoro della Commissione europea su vari fronti, a partire da quello dei migranti. Dunque facciamo un punto su questo e facciamo un punto anche sulle reazioni con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Lo dicevi, da studio, attacco del Presidente della Commissione europea Juncker al Premier Renzi, che a suo dire ha torto a vilipendere la Commissione a ogni occasione. Non vedo perché lo faccia, dice Juncker, per il numero uno a Bruxelles. Roma non dovrebbe criticare troppo. E poi il capitolo flessibilità l'ho introdotta io, dice Juncker, non lui. Sono sorpreso dalle sue dichiarazioni. Juncker annuncia che probabilmente a fine febbraio si recherà a Roma, perché l'atmosfera tra Italia e Commissione non è delle migliori, e dice di avere difficoltà a capire la riserva stupefacente, la definisce Juncker, dell'Italia a finanziare i 3 miliardi alla Turchia, perché questi non vanno alla Turchia stessa ma per i rifugiati siriani nella stessa Turchia. Le prime reazioni: è inutile che Juncker si offenda, in Europa mancano crescita, solidarietà e direzione politica. Questa è la prima reazione dal Partito Democratico ed arriva dal vicepresidente del Parlamento europeo David Sassoli, che aggiunge: è dovere di un governo europeista come quello italiano richiamare la Commissione ad essere motore di una svolta che finora non c'è stata. Reazioni ufficiali da parte di Palazzo Chigi ancora non arrivano, Simone, ma certo fanno sapere fonti del governo: l'attacco di Juncker appare sproporzionato rispetto ai dossier sollevati dall'Italia. In attesa allora di un comunicato che dovrebbe arrivare a breve, dall'esecutivo si sottolineano i punti di frizione con la Commissione europea. Li ricordo brevemente: le promesse non mantenute sull'immigrazione, il caso Turchia, miliardi in poco tempo ad Ankara a fronte di poche risorse concesse all'Italia, e poi le corsie preferenziali riservate solo alla Germania sui tempi dell'unione bancaria, e poi la disponibilità di Bruxelles verso il progetto Brexit di Cameron, ed ancora le contraddizioni verso Mosca. Insomma, tanti gli appunti di Palazzo Chigi. Quanto alle opposizioni, Simone, coro di critiche al Premier. Brunetta, Forza Italia, dice: sberle di Juncker a Renzi. Di solito Juncker non ci piace, ma oggi come dargli torto. E per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Di questo scontro torneremo a parlare più avanti nel corso della trasmissione. Ospiteremo Gianni Pittella, che è italiano come sapete, siede nel Parlamento europeo, è presidente del gruppo parlamentare dei socialisti, e gli vogliamo chiedere anche se a questo punto c'è anche l'intenzione, viste alcune dichiarazioni che abbiamo visto in giro, di togliere magari la fiducia a Juncker. Di questo parleremo con lui. Come sentivate, il presidente della Commissione europea ha parlato anche di immigrazione e ha parlato anche di Schengen, il servizio. Se cade Schengen, cade anche l'euro. Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che evidentemente oggi aveva più di un sassolino nelle scarpe. La fine di Schengen, ha detto, rischierà di mettere fine all'unione economica e monetaria, e il problema della disoccupazione diventerà ancora più importante. I controlli alle frontiere hanno un prezzo, ha detto. Ad esempio, quelli tra Svezia e Germania costano 300 milioni di perdite di introiti, quelli tra Germania e Danimarca 90 milioni. Sulla questione dell'accordo con la Turchia sui migranti, migranti e le resistenze dell'Italia, Juncker si è mostrato perplesso. Ho difficoltà, ha detto, a capire la riserva stupefacente dell'Italia a finanziare i 3 miliardi, perché questi non vanno alla Turchia, ma per i rifugiati siriani in Turchia è una questione di credibilità. Il nodo contestato dall'Italia è che dei 3 miliardi uno provenga dal bilancio comunitario, gli altri due dovrebbero giungere dai bilanci nazionali. Il governo italiano invece spinge perché le risorse arrivino tutte dal bilancio comunitario. Di questo aveva parlato in mattinata anche il presidente dell'Eurogruppo e dell'Ecofin, Dijsselbloem. Cercherò di spingere per trovare un accordo sui 3 miliardi alla Turchia con l'Italia, ha detto stamattina. È ancora contraria, ma sentiamo oggi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra l'altro sono molte le notizie che arrivano sul fronte immigrazione questa mattina. L'ultima arriva dalla Grecia, dove almeno 3 bambini sono annegati dopo che all'alba il gommone di migranti su cui viaggiavano si è rovesciato nel mare Egeo tra la costa turca e l'isola greca di Agatonissi. Questo è quello che riferiscono le autorità di Atene. Dopo il naufragio 20 persone sono state salvate. E ancora c'è stato un salvataggio avvenuto ieri notte nel canale di Sicilia con 131 persone, mentre arriva un allarme dalla polizia austriaca che dice nelle prossime settimane il Brennero tornerà ad essere uno dei punti caldi del transito di profughi e migranti in Europa. Attualmente ogni giorno entrano dal Brennero in Tirolo tra le 200 e le 300 persone al giorno. Appena le temperature torneranno a salire ne attendiamo 700 al giorno. E per chiudere sul capitolo immigrazione c'è anche l'indiscrezione che arriva dalla Svizzera, diffusa da organi di stampa. La Svizzera starebbe per annunciare il sequestro dei beni dei rifugiati per pagare le spese del loro mantenimento, un provvedimento parzialmente preso anche dalla Danimarca. Passiamo alle vicende politiche, come vi dicevo, su tutto questo torneremo più avanti. Resta alto e forte il dibattito sulle unioni civili, con il Partito Democratico spaccato sulla cosiddetta stepchild adoption, ossia la possibilità di adozione del figlio del partner. Intanto è stato annunciato dal fronte opposto un Family Day per il 30 gennaio. La legge sulle unioni civili non si cambia, è tempo di decidere. È la senatrice democratica Cirinna oggi a dire no a modifiche del testo che porta il suo nome, un provvedimento che divide la maggioranza e lo stesso Partito Democratico. Lo scontro è sulla stepchild adoption, cioè la possibilità di adottare il figlio del proprio partner in una coppia omosessuale. Una misura che non piace ad alcuni parlamentari cattolici del PD che ieri hanno chiesto lo stralcio della norma dalla legge proponendo come alternativa l'affido rafforzato. Il vice segretario Guerini ha però confermato che la linea del partito è quella di portare il testo in aula così com'è per poi lasciare libertà di coscienza ai parlamentari Dem, ma ad essere contrari alla stepchild adoption nella maggioranza sono anche i centristi di Area Popolare. Perché la legge venga approvata senza modifiche saranno dunque necessari anche i voti delle opposizioni. Questa mattina intanto è stato confermato che il Family Day organizzato dal mondo cattolico si terrà a Roma il 30 gennaio, 2 giorni dopo quindi l'avvio del confronto in Senato sulla legge Cirinna. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come nelle attese, oggi il governo ha dato il via libera ad una serie di depenalizzazioni per ridurre l'ingolfamento dei tribunali. Sentiamo. Dalla cannabis per uso medico alla guida senza patente, dall'ingiuria agli atti osceni in luogo pubblico, il governo abroga una serie di reati derubricandoli a illeciti amministrativi. La sanzione penale viene dunque sostituita da una multa molto più salata che funga da deterrente. Depenalizzata in particolare la violazione delle prescrizioni sulla coltivazione della cannabis, ma solo per chi è già autorizzato a farlo a fini terapeutici. Fuori da questa cornice coltivarla resta reato. Altro capitolo, il codice della strada: non sarà più reato guidare senza patente o con documento scaduto, la violazione diventa illecito, sanzionabile con una multa fino a 30.000 euro e confisca del mezzo. Resta la sanzione penale in caso di recidiva. Altre depenalizzazioni riguardano il reato di atti osceni in luogo pubblico, l'abuso della credulità popolare, le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, il noleggio di materiale coperto da copyright. Saltata invece la depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina, troppe polemiche, se ne parlerà più avanti. Dal governo anche l'intenzione di accelerare sui licenziamenti per i cosiddetti furbetti del cartellino che lavorano nella pubblica amministrazione. I decreti sono attesi la prossima settimana. Tra le ipotesi a cui si lavora, quella di procedere con una sospensione cautelare del dipendente colto in flagrante. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le vicende di Renault da una parte, di Fiat Chrysler dall'altra, le notizie con le quali abbiamo aperto ieri la trasmissione, ossia l'indagine aperta su Renault, parzialmente smentita ieri dal governo per possibili trucchi sui software che controllano le emissioni di inquinanti, e Fiat Chrysler dall'altra, appunto, questa denuncia arrivata da un concessionario secondo il quale avrebbero subito pressioni, denuncia smentita dall'azienda, notizia smentita dall'azienda, secondo il quale avrebbero subito pressioni da Fiat Chrysler per gonfiare i dati. Vicende molto diverse, ma che hanno generato uno scossone sui mercati. I titoli oggi sono piuttosto nervosi ancora in borsa. Fiat Chrysler cede l'1,10%, Renault circa il 2%, da considerare che il mercato è comunque negativo. Il FTSE MIB cede l'1,7%, il FTSE All Share altrettanto. Gli aggiornamenti sulle due vicende. Il giorno dopo la debacle sui mercati si contano i danni e non bastano i dati positivi delle immatricolazioni in Europa a dicembre a riportare la calma sui listini. A Parigi come a Milano i titoli Renault e Fiat restano deboli, così come tutto il comparto auto. In Francia si ribadisce che si è trattato solo di controlli, lo sforamento dei limiti delle emissioni sì, quello c'è, ma nessuna truffa, nessun software truccato. L'arrivo degli incaricati dell'ufficio frodi del Ministero dell'Economia in alcuni siti di Renault rientra nella collaborazione tra costruttori e autorità per arrivare alla massima trasparenza sui valori dei consumi e delle emissioni dei veicoli. Le prove riguardano anche Peugeot, che però ha precisato di non aver ricevuto visite. Ora Renault si mette in regola, ha affermato Ségolène Royal, ministro dell'Ambiente. Resta il colpo, un altro per il diesel europeo. Il caso americano di Fiat Chrysler invece riguarda le vendite e non i motori. Due concessionarie sostengono che FCA abbia offerto incentivi a saloni statunitensi per registrare vendite l'ultimo giorno del mese e stornarle poi il giorno dopo. Accuse prive di fondamento, afferma il gruppo, per un caso che forse è già evaporato. I controlli sulle emissioni invece si allargheranno, potrebbero coinvolgere molte altre case, compresa Fiat Chrysler. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo all'estero, prima gli attentati a Istanbul, poi quelli a Giacarta. Oggi decine di terroristi somali di Al-Shabaab hanno attaccato una base dell'Unione Africana in Somalia, 60 le vittime tra i militari keniani. I testimoni riferiscono di cadaveri di militari ovunque, sarebbero almeno 60 le vittime, tutti soldati keniani, dell'attacco compiuto questa mattina dal gruppo terroristico somalo Al-Shabaab in una base dell'Unione Africana nel sud-ovest della Somalia, al confine con il Kenya. I militanti islamisti somali sarebbero riusciti a fare irruzione con un'autobomba nella base di peacekeeping gestita dall'esercito keniano e poi avrebbero cominciato a sparare all'impazzata. L'attacco è durato ore. L'organizzazione terroristica legata ad Al-Qaeda ha rivendicato l'attentato e annunciato di aver preso il controllo totale della base. In Indonesia, intanto, la polizia ha arrestato tre presunti complici del comando entrato in azione ieri a Giacarta. Quattro dei cinque attentatori morti nell'attacco rivendicato dall'ISIS sono stati identificati. Uno di loro era stato in carcere per 7 anni per aver frequentato un campo di addestramento per combattenti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca, iniziando dall'Italia, con due notizie. La prima, arrivano tutte e due da Varese in realtà. Il procuratore di Varese Daniela Borgonovo ha chiesto l'assoluzione dei carabinieri e dei poliziotti imputati per la morte dell'operaio Giuseppe Uva, morto appunto la mattina del 15 giugno 2018. Secondo il magistrato non c'è nessuna prova di comportamenti illegali da parte degli imputati e non vi è nessuna prova delle lesioni che sarebbero state inferte a Uva, come denunciato invece dai familiari. Sempre da Varese si diceva, arriva la notizia di cronaca del giorno, un uomo è stato arrestato questa mattina per l'omicidio di Lidia Macchi, una studentessa che fu trovata morta in un bosco in provincia di Varese nel 1987. L'arresto arriva a quasi 30 anni dal fatto e la persona finita in manette è un ex compagno di liceo della vittima che nel giorno del funerale della ragazza avrebbe inviato una lettera anonima a casa della famiglia Macchi. Questo lo approfondiremo più avanti, ne parleremo col direttore di uno dei giornali locali, anzi il principale giornale locale, la Prealpina, perché è stata proprio la Prealpina la prima a pubblicare, a scoprire e a pubblicare questa lettera. Il caso poi era stato riaperto nel 2013. Restiamo sulla cronaca, ma ci spostiamo in Francia per una vicenda che riguarda una serie di persone in gravissime condizioni dopo aver assunto una molecola sperimentale di un farmaco in fase di test, a quanto pare un farmaco a base di cannabis. Marco Musanè, del Sole 24 Ore da Parigi. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Che cosa ci racconta la cronaca? La cronaca ci dice che un test clinico condotto da un laboratorio francese, di laboratorio Breton di Rennes, è finito male, nel senso che dei sei volontari sani a cui era stato somministrato un medicinale in fase di test, un antidolorifico a base di cannabis per conto di un gruppo farmaceutico portoghese, Bial, sono in realtà uno di questi sei volontari, uno è in stato di morte clinica all'ospedale di Rennes e cinque sono ricoverati in gravi condizioni. Questo il quadro complessivo, dunque era un farmaco a base di cannabis come abbiamo letto? Sì, apparentemente sì, secondo le prime informazioni che arrivano dal Ministero della Sanità sì, si tratta di un antidolorifico a base di cannabis. Il laboratorio in questione è un laboratorio che da 20 anni, un laboratorio ovviamente autorizzato, che da 20 anni è specializzato in questo tipo di test e appunto non era ovviamente mai accaduto nulla. L'incidente si è verificato all'inizio della settimana, ma se ne è avuta notizia soltanto questa mattina. Ovviamente sono in corso i controlli e le indagini da parte sia della magistratura sia del Ministero della Sanità per capire esattamente che cosa è successo. Ovviamente, perché appunto abbiamo detto era un farmaco a base di cannabis e questa è la notizia che sta circolando, ma non è detto che sia stata quella evidentemente la molecola che ha provocato questi danni. Grazie a Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Una piccola correzione che mi arriva da qualche ascoltatore che mi scrive su WhatsApp al 349-238-6666 parlando della morte di Giuseppe Uva. Devo aver dato una data sbagliata, ho detto 15 giugno 2018, ovviamente no, il 15 giugno del 2008, questa la data della morte di Giuseppe Uva. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo, parleremo ancora dello scontro tra l'Italia e l'Europa, ha parlato pochi istanti fa il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, ascolteremo un passaggio del suo intervento, sentiremo Gianni Pittella, Presidente del Gruppo Parlamentare dei Socialisti all'Europarlamento e poi torneremo sulle vicende delle auto, lo faremo con Massimo Lascimbene, con direttore di Quattro Ruote, per capire che dimensione abbia effettivamente questo caso Renault che qualcuno ha paragonato forse impropriamente alla vicenda Volkswagen. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I titoli di oggi: Juncker contro Renzi, dice la smetta di attaccare la Commissione sulla flessibilità, si è intestato la vittoria, ma se la flessibilità c'è è solo grazie a me, nessuna volontà di offendere, ha detto pochi istanti fa il Ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan. Rimanete dopo 30 anni per l'omicidio della ex compagna di liceo, a Varese è stato arrestato un uomo di 42 anni. Sulle unioni civili resta aperto lo scontro nel Partito Democratico, una trentina di cattolici contro l'adozione del figlio del partner. Titoli dell'auto nervosi in borsa dopo la bufera di ieri su Renault e Fiat Chrysler. Intanto arrivano anche i dati sulle vendite in Europa, più 9,2% per il settore nel 2015. E riprendiamo dunque parlando dei difficili rapporti tra l'Italia e l'Europa, o meglio tra l'Italia e le istituzioni europee in questo momento, in particolare la Commissione europea. Delle dichiarazioni di Juncker vi abbiamo riferito poco fa, voglio salutare Gianni Pittella che è presidente del gruppo parlamentare dei socialisti all'Europarlamento. Pittella, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno anche ai radioascoltatori. Ma cos'è, potreste togliere l'appoggio a Juncker? Il gruppo socialista ha ribadito il suo sostegno alla Commissione Juncker e anche a Juncker sul piano personale come Presidente della Commissione. Abbiamo posto dei problemi che vanno risolti e ovviamente se i problemi non si risolvono cambia anche il nostro atteggiamento e un po' anche le cose che sta facendo il governo italiano. Il governo italiano non sta agendo come spaccia carrozze. Il governo italiano, e oggi ho visto Renzi, quindi lo posso dire anche in presa diretta, lavora per risolvere i problemi, per migliorare l'Europa, per cambiare l'Europa, è un po' quello che facciamo noi come gruppo dei socialisti. Tra questi problemi il principale è quello della ripresa economica. L'Europa non può morire di asfissia economica, non può morire di patto di stabilità. La flessibilità è un elemento che rende il patto di stabilità meno angusto, che consenta di fare degli investimenti per creare posti di lavoro. In sostanza, sì, questo è quello, una delle cose che chiede il gruppo socialista ed è una delle cose che chiede il governo italiano. E poi ovviamente c'è tutta la questione migranti, Pittella. Quindi mi sembra di capire, in linea di massima, conservate la fiducia in questo esecutivo, ma Juncker le sembra che abbia esagerato questa mattina? Ma adesso io voglio molto bene a Jean-Claude Juncker e quindi preferisco mettere sul piano della costruttività. Oggi bisogna fermare ogni tipo di polemica e dedicarsi alla soluzione dei problemi. L'Europa sta, come istituzioni e anche come comunità, sul ciglio del baratro. Chi è più responsabile, e noi dobbiamo esserlo, deve lavorare per e non per dividere, per risolvere e non per distruggere, altrimenti non ci sarà un perdente o un vincitore, perché ci saranno soltanto le macerie. Questo dice lei, però è vero anche che un po' di polemica l'ha alzata lo stesso governo italiano, Pittella, insomma questo non è che si può nascondere. Conosciamo anche le caratteristiche delle personalità di cui stiamo parlando, cioè, sia Matteo che Jean-Claude Juncker sono due grandi personalità che non parlano il politichese, che è un fatto positivo, diciamo. Però a me cosa più interessa al cittadino deve interessare, che al netto della coloritura, della fraseologia, l'intento sia di Matteo Renzi che di Juncker è un intento positivo. Quando ci si vuole bene si usano anche parole forti che sono finalizzate ad un chiarimento. E quindi Juncker e Renzi si vogliono bene, cioè questo sta dicendo? Sì, lo confermo, come l'ha detto addirittura Juncker, ha detto io amo tanto Matteo Renzi, in senso buono ovviamente, e da Renzi non ho mai sentito pressione con Giacomini. Il problema quindi non è un problema di sentimenti, è un problema di soluzione delle questioni. Va bene, senta Pittella, che cosa ha consigliato a Renzi, di abbassare i toni o di tenerli come sono? Guardi, io da Renzi che Mi sta cadendo la linea. Mi sente? Diceva? Io la sento bene. Adesso la sentiamo, prego. Renzi mi ha confermato che l'Italia lavora in modo costruttivo per aiutare a risolvere i problemi dell'Europa. E questo a me interessa e questo credo interessi i cittadini italiani. Non conservare l'Europa com'è, ma cambiarla e migliorarla. La ringrazio, grazie a Gianni Pittella, capogruppo dei socialisti all'Europarlamento, e saluto Massimo Nascimbene, con direttore di Quattro Ruote. Massimo, bentornato ai nostri microfoni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Prima di parlare con te essenzialmente del caso Renault, magari con un accenno alla vicenda Fiat Chrysler, devo fare una piccola correzione. Oggi, perdonate, è venerdì, con le date non ci siamo. Anche nei titoli che riguardavano l'omicidio della Macchi a Varese, abbiamo detto che l'uomo che è stato arrestato ha 42 anni, ovviamente mi fate notare che dato l'omicidio di 30 anni fa ne avrebbe avuti 12, evidentemente non è così di anni, l'uomo ne ha 49. È venerdì, chiedo perdono. Ne parliamo tra poco di questa vicenda, lo faremo col direttore della Prealpina Paolo Provenzi, hanno tirato fuori un bello scoop anche su questa vicenda. Intanto parliamo della vicenda Renault. Il punto è questo: ieri si sono diffuse indiscrezioni di fonte sindacale, come anche vi abbiamo raccontato, secondo le quali la polizia è entrata per fare una serie di perquisizioni e in alcune sedi della Renault, quelle dove di fatto si strutturano e si fanno i test di omologazione, e c'è l'ipotesi, è circolata per ora l'ipotesi di un nuovo Dieselgate in stile Volkswagen. Mi sembra, Massimo, che le cose siano discretamente diverse da come sono state rappresentate nel corso della giornata di ieri. Decisamente, io la definirei un po', casomai, l'onda lunga del caso Volkswagen, nel senso che a seguito di tutto quello che è successo nei mesi scorsi, i diversi governi, incluso quello francese, hanno deciso di avviare una serie di controlli sulle emissioni dei veicoli da immatricolare, che appunto nel corso di questi controlli la commissione guidata da Ségolène Royal, ministro dell'energia francese, ha evidentemente verificato delle discrepanze tra i valori dichiarati dalla Renault in sede di omologazione e quelli che ha rilevato la commissione nei suoi controlli, il che però non vuol dire che ci sia, come nel caso Volkswagen, un software truffaldino che trucca le misure in omologazione. Semplicemente, uno, il processo di omologazione presta il fianco a tutta una serie di accorgimenti borderline che permettono quando le differenze sono minime di stare al di qua piuttosto che al di là dell'asticella. Due, la commissione ha verificato le vetture secondo un suo protocollo, quindi non seguendo il test attualmente in vigore in Europa, e gioco forza, quando cambia il protocollo cambiano i risultati. Non per tutti, obietta qualcuno, tanto che poco fa la Peugeot se ne è uscita con un comunicato bello come il sole dicendo: tutte le nostre macchine sono a posto, tutte le nostre macchine verificate dall'ente governativo stanno nei limiti, ma evidentemente per qualcuno sì. Per qualcuno evidentemente sì. Tra l'altro ci scrive un ascoltatore, Roberto da Modena, via SMS, che dice: da 40 anni un vostro fedele lettore e continua a vedere abissali differenze tra i consumi dichiarati e quelli rilevati alla rivista. Però questo ovviamente è un altro conto e più ampio, sul quale, a quanto mi sembra, la Commissione europea si è impegnata ad intervenire. Vedremo come, no? Sì, è un altro conto fino a un certo punto, perché diciamo il padre di tutte le stranezze, di tutte le possibilità di fare artifici e dichiarare più o meno veri, è questo benedetto ciclo di omologazione che risale agli anni 70 e che in quanto tale è lontano anni luce dalle tecnologie automobilistiche odierne e dal modo di utilizzare l'automobile odierna, per cui noi andiamo ripetendo da anni che escono delle differenze abissali tra i valori dichiarati dalle case, che sono quelli omologati, e quelli che rileviamo noi. Aggiungo che la differenza è andata, questa forbice tra i consumi ufficiali, quelli che noi rileviamo, è andata ampliandosi drammaticamente negli ultimi anni, guarda caso da quando è diventato impellente per le case tagliare le emissioni di CO2 in funzione del famoso obiettivo dei 95 grammi chilometro per il posto per il 2020 dall'Unione Europea. E siccome i consumi le emissioni di CO2, sono perfettamente proporzionali ai consumi, evidentemente le case hanno lavorato molto sì per migliorare l'efficienza dei motori, ma soprattutto per migliorare il rendimento dei motori all'interno di questo ciclo che, come insisto a dire, lontano anni luce dalla realtà. Ti ringrazio, grazie a Massimo Nascimbene, con direttore di Quattro Ruote, per averci aiutato con questi chiarimenti che abbiamo voluto concentrare sulla vicenda del Renault, non perché vogliamo ignorare quella Fiat Chrysler, ma semplicemente perché in parte ne abbiamo parlato ieri, in parte è una vicenda completamente diversa, e tra l'altro tornerà a parlarne Mario Platero in America 24 insieme al collega del Sole 24 Ore Andrea Malana. Noi adesso ci fermiamo, andiamo come sempre a sentire che cosa succede sui mercati nella seconda parte della trasmissione. Come vi annunciavo, parleremo con il direttore della Prealpina Paolo Provenzi e ci racconterà com'è andata la vicenda di questo assassino scoperto a 30 anni dall'omicidio e che vede coinvolto questo stesso quotidiano. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Juncker va all'attacco di Renzi, la smetta di prendersela con la commissione, ministro dell'economia per Carlo Padoan dice: nessuna volontà di offendere. Rimanete dopo 30 anni per l'omicidio dell'ex compagna di liceo. È stato arrestato un uomo di 49 anni. Il caso era stato riaperto nel 2013. Unioni civili, resta aperto lo scontro nel Partito Democratico. Manifestazioni contro il DDL Cirin il 30 gennaio. Titoli dell'auto nervosi in borsa dopo la bufera di ieri su Renault e Fiat Chrysler. E proprio di borsa parliamo adesso. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, al microfono sempre Simone Spezia. Paolo Provenzi, direttore della Prealpina, il giornale più importante di Varese. Buongiorno Paolo, benvenuto. Grazie. Allora, la vicenda è questa: una ragazza nel 1987, Lidia Macchi, viene trovata morta in un bosco in provincia di Varese e oggi è stato arrestato quello che si presume essere l'assassino. Un uomo, come si diceva, di 49 anni, di nome Stefano Binda, ex compagno di liceo della ragazza che tra l'altro l'avrebbe stuprata prima appunto di ucciderla. Le indagini erano state riaperte nel 2013 e poi negli ultimi mesi è arrivata una svolta che, Paolo, è passata anche dal vostro giornale. In che modo? Ce lo spieghi? Ma l'aspetto veramente clamoroso di questa vicenda, possiamo anche usare il termine, è che nel maggio dello scorso anno, nell'ambito appunto della riapertura delle inchieste, avevamo pubblicato una lettera, la lettera anonima che venne scritta da un anonimo e mandata il giorno dei funerali della ragazza alla famiglia. In questa lettera, che era una sorta di confessione, quindi chiaramente una lettera scritta dall'assassino, intitolata In morte di un'amica, venne ripubblicata proprio dalla Prealpina nel maggio di quest'anno nell'ambito appunto delle nostre inchieste sulla riapertura del caso. A seguito di questa riapertura del caso, della pubblicazione della lettera, hanno fatto delle trasmissioni televisive e una di queste, chi l'ha visto, uno speciale che andò in onda quest'estate. Un'amica dell'epoca di Lidia Macchi, rivedendo questa lettera nello speciale pubblicato, nella lettera pubblicata da Prealpina, nello speciale di chi l'ha visto, ha riconosciuto in sostanza la scrittura e anche lo stile di un suo compagno di scuola che all'epoca appunto scriveva lettere anche a lei. Da qui è la svolta, perché praticamente lei ha denunciato questa cosa agli inquirenti, hanno fatto una perizia calligrafica sulla lettera e hanno scoperto che la persona che ha scritto quindi quella lettera anonima, che era una sorta di confessione ai genitori della ragazza 30 anni fa, è appunto Stefano Binda. Questo è il punto della situazione. Ora, oltre alla lettera, cosa altri elementi ci siano, è tutto ancora al vaglio. Naturalmente. Adesso stanno uscendo delle indicazioni che arrivano dall'ordinanza del GIP, per cui Binda avrebbe scritto su un suo diario. Hanno trovato anche il diario da cui è strappata la pagina della lettera poi spedita. Appunto la famiglia, ecco, e quindi potrebbero far combaciare le pagine come ulteriore indizio, se non prova. Qua lui scrive in questa pagina: Stefano è un barbaro assassino, riferendosi a se stesso. Un omicidio maturato, ci sembra di aver capito, Paolo, in un ambito di follia, una follia religiosa, no? Beh, questa lettera, che si intitolava In morte di un'amica, il tenore è quello: la morte urla contro il suo destino, grida di orrore, orrenda censura, strazio di carni, e tu agnello senza macchia, e tu agnello purificato. Questo è il contenuto, uno straccio della lettera che peraltro abbiamo pubblicato proprio adesso anche su prealpina.it. Chi vuole può andare a leggersi. Quella era già la confessione. 30 anni dopo arriviamo all'autore di questa lettera. Siamo lì per il momento. Poi ci sarebbero anche alcuni altri elementi. Quello che fa specie, per esempio, che noi oggi ovviamente siamo andati con i nostri giornalisti a Brebbia a sentire le reazioni, e la cosa curiosa è che il paese non si dice stupito. Ah, nessuno si dice stupito, perché di solito quando viene arrestato l'assassino, le interviste a margine sono sempre: era una brava persona. Si sapeva che noi tutti qua pensavamo, adesso ovviamente stiamo parlando di reazioni di pancia della gente, tutto da chiarire, però in questa vicenda di aspetti da chiarire ce ne sono veramente tanti. Non è un caso che l'inchiesta è stata avvocata da Milano, erano spariti reperti, ci sono state delle negligenze nelle indagini. La riapertura è stata peraltro legata al sospetto di un altro omicidio, che l'autore fosse Piccolomo, che era un altro che aveva commesso un omicidio efferato in provincia di Varese. Ma quindi la pista sicuramente non era quella giusta. Poi il caso, diciamolo pure, perché sì, la pubblicazione della lettera, il fatto che la trasmissione televisiva l'ha ripresa, il fatto che questa signora ha visto quella trasmissione, il fatto che si sia ricordata, una serie di come dire, di fattori che hanno portato a questa, che speriamo sia la svolta delle indagini. Ti ringrazio, grazie a Paolo Provenzi, direttore della Prealpina, e complimenti evidentemente per il vostro lavoro. Saluto invece adesso Alessio De Giorgi, che è un altro direttore, ma di Gay.it. Alessio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, siete un po' nell'occhio del ciclone perché avete pubblicato foto e nomi dei parlamentari cosiddetti cattodem, cioè i cattolici del Partito Democratico, che sono contrari al DDL Cirinna, quello sulle unioni civili, nella parte che riguarda la cosiddetta stepchild adoption, ossia la possibilità, nel momento nel quale ci si unisce con questa unione civile da parte del partner, di adottare il figlio dell'altro partner. La spieghiamo così gli ascoltatori lo sanno. Che cosa rispondete? Qualcuno ha detto è una lista di proscrizione. Ma noi abbiamo fatto semplicemente un'operazione verità. Sono parlamentari, legittimamente possono avere le loro posizioni e non potevamo definirli omofobi, non l'abbiamo fatto, abbiamo dato loro semplicemente i nomi rendendo pubblica la loro posizione. Di 36 nomi abbiamo sbagliato su 4, quindi direi che l'operazione era non soltanto vera ma anche, diciamo, corretta dal punto di vista dello stato dell'arte. Ecco. Il fatto, cioè, non è che stiamo criticando il fatto che fossero quelli o non fossero quelli, no, però qualcuno dice non si fanno le liste in questo modo, cioè è un modo di mettere alla berlina delle persone, no? I quotidiani ogni giorno pubblicano resoconti, retroscena più o meno esatti. L'avesse fatto Repubblica un elenco dei, diciamo, dubbiosi sulla stepchild, nessuno avrebbe usato la parola squadristi, e questo è vergognoso, devo dire, perché noi siamo un sito piccolissimo che fa informazione da 15 anni su queste tematiche, e, come dire, ricevere accuse di questo tipo, di squadrismo addirittura, a chi ha un sito che rappresenta la comunità, che lo squadrismo l'ha vissuto non con tweet e mail, ma con la deportazione, insomma. È davvero sbagliato e credo anche di cattivissimo gusto. Ti ringrazio, grazie ad Alessio De Giorgi, direttore di Gay.it. Come avete sentito, la loro iniziativa ha fatto discutere e loro si difendono in questo modo. Noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.